Camaglio, che bada, ella, che vedi? Ma cosa che stai con me, Piri, se posso sapere? Tucca, ma ti copo. E non ci copo, ma se ne vuoi fare. Che vedi? Mi abbassi i copumi. Luca Cecilia. Luca Maglio. Dai. Che vedi? Ma mi senti? Che vedi? Ciao, dottor Giamari. Ma lui si sposta. Giamari. Luca. Oh. Ehi, mi senti? Ma su sì. Mi senti? E tu mi senti? Pronto, pronto. Chi parla, chi parla? Giamari. Dormito sei. Mari. Oh, lui, stavo parlando con la barca, stavo parlando. Ecco perché non mi sentivi. Con chi? Con le barche di Platamona. Con la barca di Platamona? Con la barca di Platamona stavo parlando. Boh, e che canale è? Boh, ha già senso. E devo vedere, non so se non mi intendi. Dove mi senti, Luca? Invece ero sulla banda marina, ero. Ah, ho capito. Non fai il giraggio. Che cosa? Dai, no, qua non si può dire, dai, Lu. Ah, che dire. Banda marina e basta, no. No, non è possibile, ogni tanto ne capita già una. Infatti, strano, toccavo l'antenna e ti sentivo, la toccavo e Ma forse, io ho acceso e ho cominciato a parlare, no, non l'ho guardato che ero sulla banda marina, capito? Vabbè, dai, succede. Dai, ci sentiamo, Luca. Sì, ciao Giovanni. Peppa! Peppa! Luca! Luca e Peppa! Ciao Mari, che stai facendo? C'è dormita, c'è Mari? Grazie a voi!